Meglio sia così, che tu non sia mia, che tu non sia qui. Io sono quello che perdi. Ciò che non ritorna. Ma quando resterai sola, capirai, ti spiegherai il Io sono quello che perdi. Io sono quello che perdi, sai. Se vuoi andartene vai, e che nessun motivo al mondo ti trattenga. Amarti è stato il mio trip, e adesso voglio scenda. Ognuno pensi a sé, il tempo cancellerà ogni ferita, ogni traccia, la prassi è questa. I nostri sogni non saranno mai gli stessi. È la fottuta realtà, vedi, apparteniamo a due mondi troppo diversi. Solo castelli in aria, pensa ai tuoi scopi, ai tuoi obiettivi, ai tuoi progetti. E quanto a me, non mi pensare, esci. Sono quello che non hai più, quello che ormai è stato, cica, quello che perdi. Star con te, scontrarsi con la realtà. Io sono quello che perdi, quello che non ritorna. Le cose vere che non hai, che forse non hai avuto mai. Io sono quello che perdi, cica, quello che non si scorda. Sarà una sfida, dilla, e se non vuoi non dirla. Stare con te è una scommessa, e oramai l'hai vinta. Domani è un altro giorno, un altro film, un'altra storia, un'altra stronza prenderà il tuo posto. Avrò da fare quel che è meglio per me. Primo, riprendermi la mia vita ed il mio mondo. Io posso stare anche senza di noi, e sappi, per risalire ho dovuto toccare il fondo. Cosa vuoi ancora? Ti va di parlarne? Penso che non abbiamo più niente Io da volevo dirci. solo sfidare. Ho già capito tutto. Anzi, guarda, fai una cosa, prendi il mio numero, cancella e non mi chiamare più, va bene? Buona fortuna. Io sono quello che perdi. perdi. Io sono quello che perdi. Già lo sai. Star con te, scontrarsi con la realtà. Io sono quello che perdi. Fanculo i tuoi, ma sì, tutto ok, non ho niente. Non menti che a te stessa e mentire non serve. Dimenticherai, ti guardo in silenzio mentre c'è la nostra passione che muore, tace e si spegne. Fanculo i tuoi sorrisi, alle tue carezze, ai baci che mi dai e a tutte le cose dette. Sarò un ricordo, sarò lontano, sarò il passato, tipo ciò che si perde. Meglio sia così, che tu non sia mia, che tu non sia qui. Io sono quello che perdi.